Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Oh, che bello, martedì. Già il peggio è passato. Tutti i giorni devi fare il punto della situazione. Vabbè, martedì, va bene. Sono sensibile, sono settimanopatico. Veramente, vabbè. Non per dire però, Kappa, ma da quando abbiamo aperto l'asilo a settembre, hanno cominciato a parlare di un tema di cui non si parlava mai, e cioè l'infantilismo che affligge la società italiana. All'epoca eravamo solo noi Rodotà. Adesso invece si aggiunge anche lo scrittore Gianrico Carofiglio. L'atteggiamento vittimistico è l'atteggiamento dei bambini o degli adulti infantili, che hanno atteggiamenti infantilistici. L'infantilismo comanda. Non significa giocare con l'ego, significa, come posso dire, una regressione della personalità, e l'infantilismo è uno dei connotati tipici delle personalità manipolatorie. Ecco. Vabbè, ma arriva adesso, caro figlio. Sì, però dice anche, diciamo, questa settimana è uscito anche un articolo del bambino giornalista Gramigna. Sì, che tra l'altro è uno che mette le mani dappertutto. No, scrive per il Corriere, che è dappertutto, mette le mani sulle pagine del Corriere. Al nome di uno che lo trovi dovunque, no? La Gramigna. Questo è molto divertente. Vabbè, ma non ho capito, capo, ma Jean-Louis David è l'unico che trova divertenti le nostre battute. Evidemment, c'è come sia. Noi facciamo ridere gli hairstylist. Sì, umorismo da parrucchiere. Una volta sì. C'era l'umorismo da prete, adesso c'è quello da parrucchiere. Cambiano i tempi. Vabbè, dai, Tito. Le religioni. Tito. Allora, dicevamo che anche sul Corriere della Sera di qualche giorno fa il bambino Gramigna ha scritto una paginona intera dal titolo "Una generazione di bambini adulti, la fatica di crescere troppo in fretta". Capito? Vabbè, quindi non è la stessa cosa che dici tu. Come no? No, Gramigna dice che i bambini crescono troppo in fretta. Sì, vabbè, quello è il titolo, il titolista. Poi se tu leggi l'articolo di Gramigna, che mette le mani dappertutto, viene fuori che gli adulti sono adulti, ma tendono in genere all'infantilismo e quindi trasformano i loro bambini in individui uguali a loro. Bambini più adulti e adulti più bambini creano un tutt'uno indistinguibile, con figli che portano i genitori al cinema a vedere i cartoni in 3D e genitori che portano i figli alle mostre di Cattelan, che piace anche ai bambini perché fa i pupazzi. Capito? Vabbè, è tutta una cosa così. Però sì, che poi i pupazzi impiccati non è che vabbè, bambino... ai bambini piace, come no? Molto però più che agli adulti. È meglio così che un mondo in cui gli adulti e i bambini sono separati, stanno su due piani diversi, vabbè, non comunicano. Però il conflitto è utile alla crescita individuale. Crea frustrazioni, assurde frustrazioni. Quanti film e libri sono stati creati proprio partendo dalla frustrazione generazionale? Appunto, capo, ecco, vedi che litigare con i padri serve a qualcosa. Poi sì, fai ma i libri, mentre film, litighi no? Stai male, quindi è meglio adesso. Vabbè, no? Tutti dai. Insieme al multisala, strafoghiamoci di popcorn, caramelle, gelati, Coca-Cola. Questo è il futuro. E tu ne sei contento? Sì, no, beh, ma io non vado al multisala. Ah. Vabbè, senti, Kappa, sai che puntata è questa? No, è la 157. No. E allora? Vabbè, dai, dopo 157 puntate uno può anche essere un po' stanchino. Quindi fai tu da qui in avanti, io me ne sto zitto, tu lanci le cose. Io da dico qui solo, in avanti, cioè, per questa puntata o per sempre? Cominciamo con questa, poi vediamo per il futuro, ci organizziamo. Ma non mi sento... Vedi che ho un po' di mal di gola, non sto bene. Cioè, io non dai, 157 puntate, Kappa, no, dai. Possiamo parlare dell'SMS che salva 8.000 bambini in Africa, fonte La Repubblica. Allora, parliamo. Sì, ma sono un po' malato, dai, parlane continua, tu. Continua. Andava allora, benissimo. Il titolo vedi, vabbè, non sto ma bene. Dai, non si può. No, il titolo regia, è un SMS per salvare 8.000 bambini in Africa. Pensate un po', un SMS e tac, 8.000 bambini aumentano di peso, guariscono dall'AIDS. No, ma come? Ma è così? Gli ricrescono i genitori se li hanno persi nel massacri, capito? Ruanda. Sembra che il miracoloso messaggino, l'SMS, sia stato preparato da un laboratorio segreto del governo americano, appositamente. Però non verrà mai lanciato sul mercato perché... Perché? E sai perché? È per biechi motivi commerciali. Beh, ma come al solito, le invenzioni utili non fanno mai una buona fine. Chiedo asilo! E ora, bambini, ricreazione! Gildo. Gildo! Sai una cosa, Gildo? Cosa, Gildo? Già. Tu sei un caro amico. Amico! Sì, bravo amico, però hai un difetto. Difetto? Che ripeti sempre l'ultima parola che dico io. Sì, la dico io. Lo vedi? Vedi? Però adesso basta, no? Te lo sto spiegando. Basta! pasta adesso! Ma no, ma quale pasta? Madonna, Gildo! Cioè, tu sarai anche un po' scemo! Un po' scemo! Però, purtroppo, sei anche il mio unico amico. Volentierissimo! Volentierissimo! Volentierissimo! Volentierissimo! Ma hai imparato una nuova parola! Volentierissimo! Vabbè, uè, è volentierissimo. Yeah, I hear you. Gildo, che noia mortale, giocare da solo a battaglia navale. Gildo, Gildo, Gildo, Gildo, sono triste, solitario. Gildo, Gildo, facciamo che tu eri, Gildo, Gildo, il mio amico immaginario. Volentierissimo. Freestyling. Gildo, Gildo, Gildo, Gildo, Gildo, sei come un fantasma, nessuno ti vede, Gildo, Gildo, ma c'hai la voce con l'asma. Gildo, Gildo, Gildo, Gildo, siamo culo e camicia. Gildo, Gildo, io sicuramente sono la camicia, quindi necessariamente tu devi fare il culo. Gildo, facciamo merenda? Volentierissimo. Giochiamo in bici? Volentierissimo. Montiamo una tenda? Volentierissimo. Giochiamo la Wii? Volentierissimo. Facciamo una festa? Volentierissimo. Chiamiamo due escort? Volentierissimo. Anzi, due a testa? Volentierissimo. Però paghi tu, Gildo, Gildo. Allora, Gildo, facciamo così. Questa volta paghi tu. Volentierissimo. Anzi, mi dai adesso 100 euro? Gildo, Gildo. Che poi dopo... Volentierissimo. E dopo tu te li fai dare da tua madre, no? Volentierissimo. E allora dammeli, no? Gildo, Gildo. Allora. Signore! Che era io! 福島県の原発軍のお腹が。ああ、お腹が。ね、お腹が。bene, sai che a me Nuclear Boy piace ti un appassiona, casino. Eh sì, perché continuano le avventure, beh, guarda, vai, che continuano, non è che è una roba estemporanea. In Giappone continuano e seguono le evoluzioni dei problemi della centrale di Fukushima. Anzi, più sono grandi i problemi, più continuano i cartoni animati. Spieghiamo un attimo a chi non ha seguito le puntate precedenti che in Giappone i bambini adesso sono informati dei pericoli nucleari causati dalla centrale di Fukushima grazie a un cartone animato chiamato Nuclear Boy. Nuclear Boy! L'eroe di questo cartone animato è un bambino che non deve fare la cacca, perché se no la puzza sarebbe troppo forte e farebbe dei danni. La puzza, insomma, tutta metafora, ma è sottilissimo. Però ormai purtroppo la cacca l'ha fatta. L'ha fatta. Infatti, le nuove puntate sono state aggiornate, hanno costruito in pratica intorno a Nuclear Boy un super pannolone per evitare che la cacca fuoriesca. Però adesso gli sceneggiatori del cartoon sono alla frutta. Perché? Perché ormai si sa che tutta la radioattività è finita in mare e quindi devono far vedere il pannolone che cede tutta la cacca che esce. Ma magari non lo fanno. Non è un bello spettacolo. Dici di no. Già c'è la radioattività vera, poi si accende la TV, vedi pure un mare di cacca che ti investe, dai. No, ma poveri giapponesi. Vabbè, però dai, si sa che i giapponesi è gente... È gente. Adesso ti metti tu a fare i gesti alla radio. È gente cosa? È gente come i toscani, è gente... Tocago, purtroppo cagato. Ma purtroppo è giapponese. Apparo. Adesso devi dire la mail anche. Kodoko porto a chiodo adoro 8 a chiodo 488. Chiedo asilo. Che lo so.